Non riusciva a capire se la gente fosse o non fosse mutata nei suoi confronti. Si guardava attentamente attorno in cerca di segrete occhiate ostili, di freddezze, ma era impossibile veder giusto per l'interminabile dibattito che teneva adesso nel suo intimo con nessuno in particolare e con tutti in generale, cioè col Giappone. In casa andava e veniva come il solito. Ora sapeva che Tamà non avrebbe mai parlato dei fatti cinesi, qualunque fossero i suoi pensieri. Ma dopo alcuni giorni si persuase che ella non pensava neppure. Si domandò però se quel suo silenzio era sincero o non piuttosto il frutto di una costrizione. Non vide più Bungi. Il cognato era partito la notte stessa della famosa notizia del massacro. Aiwan si aspettava di essere ricollocato al medesimo posto che aveva occupato una volta, ma né Shio né il vecchio Muraki si fecero vivi. Lo studio di Bungi restò vuoto e Aiwan continuò a svolgere nel proprio le solite mansioni. Il lavoro ora ferveva, gli invii di merci erano di nuovo enormemente cresciuti. Gran parte di esse non erano tuttavia tolte dalle casse a Nagasaki, dato che si preferiva inviarle direttamente a Shio a Yokohama. Aiwan sapeva del passaggio della roba soltanto attraverso le relazioni e le descrizioni di Shio che doveva controllare e archiviare. Pechino. Quella merce veniva da Pechino. Il nome ricorreva spesso negli elenchi. Pensò cupamente che si trattasse di bottino. Bottino! Come mai supporre di diversa provenienza la merce che il signor Muraki comperava e vendeva? E tuttavia, attorno a Daiwan non c'era che il silenzio. Il solito silenzio. Egli non poteva essere sicuro che non sarebbero intervenuti altri mutamenti. Le due ragazze dell'altra parte della tramezza erano sempre pronte e cortesi nel rispondere alle sue chiamate, e si andava in qualche bottega a comperare, i commessi erano premurosi e servizievoli come sempre. Eppure, qualche cosa era mutata. La gente ora non gli rivolgeva più la parola con la facilità di un tempo. Si sentiva circondato e come ovattato dal silenzio, come se lo fasciasse l'ombra. Ubie, o piuttosto la gente assillata dalle cure parlava meno allegramente di un tempo. Impossibile dirlo. Pure in quel silenzio tutta la sua vita svaniva nell'irreale. Le cose tangibili che si era create da sé, la sua casa, il suo matrimonio, i figli, il posto nel mondo, tutto gli sfuggiva. L'unica realtà divenne ora quel lungo, quel costante interno dibattito col Giappone. In quell'intima discussione non immaginava di aver di fronte Tama o Bungi o qualche altro giapponese in modo particolare, bensì vagamente un indeterminato e sconosciuto Giappone col quale era arduo connettere la linda città in cui viveva. Le colline verdi, il mare pieno di isole, fonte per lui di gioie intense e continue. In casa, frattanto, Tamà era più che mai attenta a servirlo. Tacitamente convennero di non più uscire insieme. Un giorno egli aveva detto: «Portiamo i bambini al parco?» E lei aveva scosso il capo: «Stanno benissimo a casa, perché portarli fuori?» Dicendogli quelle parole, aveva sorriso. Ma dopo che fu uscita, Daiwan venne da pensare: soffre come giapponese perché è sposata con me. Non ardì chiederglielo. Se Tama soffriva veramente, se lui lo avesse saputo, la sua vita sarebbe stata scossa fin dalle fondamenta. Fuori, dalla finestra, udì la vocina di Giro che domandava: «Perché Mia piange così, mamma? Quando tu non ci sei, non fa che piangere.» Tama rispose chetamente: «Le hanno ucciso il fratello, Giro.» Chi lo ha ucciso? La voce del piccino vibrava di rinnovato interesse. I soldati cinesi in Cina, rispose Tamà. Allora vuol dire che sono cattivi? Esclamò indignato il piccino. A udir quelle parole, Aiwan si sdegnò con Tamà, perché ella non aveva detto semplicemente lo hanno ucciso. Si affacciò alla finestra e la vide che innaffiava le piante con a fianco Giro munito del suo piccolo innaffiatoio. Tamà! Esclamò con severità: come vuoi che il piccino capisca? A quella voce ella alzò gli occhi. Egli sentì il suo sguardo lungo e dolente fisso su di lui. Di colpo, Tamà gli apparve più vicina, più reale. Voleva spiegarle, ma ora Giro guardava una farfalla gialla e marrone che aliava sui fiori innaffiati. Piccino aveva già dimenticato. Aiwan tornò a sedere cercando di leggere il libro che aveva davanti a sé. Doveva spiegare a Tamà quella sera. Che cosa? 300 innocenti massacrati, quello lei lo sapeva e non l'avrebbe dimenticato. Qualunque cosa gli avesse potuto dire, lei avrebbe tenuto in serbo quella risposta. Aiwan, assorto in quei tristi pensieri, non vedeva le righe del libro che aveva davanti. A Shanghai, ricordava, c'erano molti giapponesi, nessuno badava a loro. A Shanghai c'era tanta gente e di nazionalità così eteroclite. Eppure, ora gli pareva di ricordare che il nucleo giapponese si distingueva da tutti per certo suo spicco particolare. I giapponesi rimanevano come erano sbarcati, giapponesi sempre. Dovunque si stabilissero, le loro case e i loro giardini diventavano altrettanti frammenti di Giappone. I giapponesi amavano troppo il loro paese per poter fare a meno di comporsi dovunque andassero un'immagine fisica della loro patria. Eppure, Taiwan conosceva la propria gente, i cinesi non ammazzavano per il gusto di ammazzare. I giapponesi avevano dovuto fare qualche cosa di nuovo e di diverso per inferocirli così. Doveva dirlo questo a Tamà. In quel punto lei lo chiamò dal giardino ed egli uscì. I bambini erano a letto, Mia se n'era andata. Erano affatto soli e insieme passeggiarono su e giù per il sentiero che il vecchio Muraki aveva tracciato al limitare del giardino verso il mare. Entrambi guardavano da quella parte in direzione del buio orizzonte. Ecco un'ora propizia per parlare, doveva parlare. Prima però doveva rompere il silenzio di Tamà, farle dire qualcosa, non importava come. Oggi sono stati buoni i bambini? Le domandò. Buonissimi, rispose tranquillamente lei. Spero che tu ti sia resa conto del perché ho parlato come ho parlato, a proposito di Giro. Certo, s'affrettò a dire lei e soggiunse, ma i bambini non ricordano. C'era un doppio senso in quelle parole. Egli cercò di vederle il viso, ma i contorni si perdevano nell'ombra. Non vide che un biancore sotto i capelli neri e continuò. Sai bene, Tamà, io sento così fortemente. Dobbiamo aspettare di sapere tutta la verità. Ho scritto a mio padre e io, per quanto mi concerne, non prenderò decisioni fino a che non mi sia pervenuta la sua lettera. Parli di decisioni? Che decisioni? Il volto bianco si volse bruscamente verso di lui. Voglio dire che non esprimerò giudizi. Ella volse di nuovo il viso in direzione del mare, senza una parola di risposta. Devi pur capire, Tamà, quel che posso provare, insistette Aiwan. Poi, vedendo che nemmeno allora rispondeva, scattò: Tamà! Finalmente ella parlò. Che cosa c'entriamo noi in tutto quel che accade? Domandò. Lo sfuggiva. Nel suo intimo ella certo pensava e sentiva, ne era sicuro, forse in modo ostile a lui. Doveva raggiungerla, scrutarla. Voglio essere certo che tu pensi che per quanto è avvenuto debba esserci un motivo. Ora ella rispose di colpo, come se quella sua risposta l'avesse tenuta lungamente in serbo. Che cosa importa quello che penso quando sono tua moglie? Parole di qualsiasi moglie giapponese. Ma che cosa erano esse in quel momento se non una ritirata che eludeva le sue domande? Non essere una donna così giapponese, gridò lui. La voce di lei parve emanare dall'oscurità. Ma io sono una donna giapponese. Era una voce dolce, come sempre, ma egli sentì che la creatura che aveva lì a fianco era tenace, inesorabile e impenetrabile, come la notte stessa. La verità è che tu hai già deciso, disse ruvidamente Aiwan. Doveva tempestarla di domande, per così dire, e farla a pezzi. Tu credi, senza ragione, che il mio popolo possa abbandonarsi al massacro come un branco di selvaggi, ma non ci conosci. Se pensi così, non capisci nulla di me. Noi abbiamo sofferto per anni, mentre voi giapponesi ci rubavate la nostra terra e il nostro commercio. Era ingiusto lui adesso, costringendola a prendere posizione contro il Giappone, ma avendo finalmente cominciato a parlar forte, non seppe fermarsi. No, io so che cosa è successo. I nostri soldati, quando videro cadere Pechino in mani nemiche, non ressero più dopo tutto quello che avevano sopportato. Per tutti questi anni ci siamo trattenuti. Ora fu la volta di Tamà. Chi allora? Proruppe agitando un braccio. Chi mai ha ucciso sudditi giapponesi a Nanchino il 27 marzo del 1927? Chi ha ucciso giapponesi a Shanghai nel 1932? E tu? Ti sei tenuta questo per tutti questi anni, contro di me? Esclamò Yuan. Ma ella scosse il capo. Non contro di te, contro la tua gente. Ma io per te sono la mia gente. Il suo sdegno era così grande che pensò sarebbe bastato per ucciderla. Ma poi si ricordò che l'aveva pur forzata a prendere posizione contro il Giappone. La voce di Tamai echeggiò ancora tristemente. Sono io per te una di quelle che dovrebbero essere ammazzate. In lei ora non c'era nulla di giapponese. Erano due creature che si parlavano attraverso l'infinita diversità della razza. Poi, improvvisamente, egli la sentì fra le sue braccia. Tamà gli cingeva il collo, gli singhiozzava sopra una spalla, vinta finalmente, ma egli non provò alcun senso di trionfo. Tamà cedeva, ma non con lo spirito. Zitta, sveglierai i bambini, sussurrò lui. Nella quiete del giardino il pianto di Tamà echeggiava forte e Jiro si svegliava per un non nulla. Quel pianto, del resto, pensò lui con insistenza, non era facilmente spiegabile. E ora che la sua collera era svanita, si sentiva debole e stanco. Le carezzò i capelli. Hai ragione, disse. La verità, quale che essa sia, non ha nulla a che fare con noi. La strinse, corrisposto da lei con una stretta altrettanto ardente. E tuttavia, per quanto entrambi desiderassero sopra ogni cosa l'amplesso, nel pieno della loro passione, quella notte il desiderio di lui svanì. Egli la voleva. E tuttavia non poté prenderla. Ella aspettò un momento, poi mormorò: Che cos'hai? Aiwan non poté risponderle, non sapeva, anche lui era stupito. Immobile, ancora abbracciato a lei, non disse nulla. La sua impotente vergogna non aveva parole. Dopo una pausa, senza insistere, Tamà si liberò della sua stretta e si preparò a dormire. Ma dormiva. Giaceva così immobile e tacita, dormisse o vegliasse, da metterlo nella impossibilità di pronunciarsi. Di quando in quando le sfiorava una spalla, una coscia, un piede. Erano così vicini, non erano in casa loro. Tamà si spostò leggermente verso di lui e gli sentì che gli prendeva una mano e se la portava al petto. E a quel contatto egli comprese la carne di lei, la carne dolce e intima di Tamà. Era mutata, o meglio, era lui che non era più quello. Si sentiva pieno di tenerezza, ma il suo desiderio era spento. E nella stessa maniera con cui lei gli teneva teneramente la mano, troppo teneramente, sentì che anche lei era stata colpita al cuore dalla stessa morte. Nemmeno lei voleva più bambini ora. Dal passato, qualcosa da lunga pezza spento era intervenuto. La volontà dei loro antenati a separarli. Gangiro, gli disse Tamai il giorno seguente, è raffreddato, converrà che stanotte io dorma con lui. E così dicendo, raccoglieva le sue robe da letto per trasferirle nella stanza dove ora Gangiro dormiva con l'altro fratello. Era soltanto per quella notte, disse, ma lui sapeva benissimo che in realtà sarebbe stato per tutte le notti. La passione fra loro due era morta. Ma si limitò a domandare: ha febbre? Un poco, rispose Tamà, e portò nell'altra stanza il suo cuscino di legno, il piccolo armadietto portatile coi pettini e le forcine per i capelli. Ella non sarebbe mai stata in collera con lui, questo Aiwan lo sapeva bene. Per tutta la giornata era stata così pietosamente buona con lui, così tenera da fargli male al cuore. Sapeva bene, infatti, che quella tenerezza era un indice della profondità dell'abisso che li divideva. Nessun mezzo di gettarvi sopra un ponte, di ritrovare il vero essere reciproco. Qualunque cosa accadesse ora, la loro tenerezza non sarebbe più venuta meno. Passando i giorni si sentì sempre più solo. Qualche volta gli veniva da pensare che persino Giro e il piccino si ritraevano da lui disgustati. Ma poi cacciava quel pensiero dicendosi che non era possibile. Più semplicemente gli prendeva le cose dal loro lato tragico. Però quella vita Si faceva ogni giorno più difficile, questo era certo. Da tempo non riceveva più notizie né da suo padre né da Aiko. Impossibile credere che Aiko, almeno lui, non avesse scritto. In quanto a leggere i giornali, non ne voleva sapere. Non credeva a quanto dicevano. Così si condannava più che mai al buio. Una mattina, riprendendo il lavoro in ufficio, vide al posto di Bungie un tale per il quale sentì immediata repulsione. Era un giovanotto che si presentò sotto il nome di Hideyoshi. Il vice direttore di Yokohama, gli annunciò, mi ha nominato a questo posto. Contrasse il viso in un sorriso che pareva una smorfia e proseguì, disgraziatamente, la mia vista è cattiva, che altrimenti a quest'ora sarei in Cina a combattere per il mio paese. Sedete. Gli indicò una sedia. Aiwan si inchinò leggermente e accolse l'invito. La volta passata, quando Bungie era partito, era stato lui ad essere nominato alla carica di direttore della filiale. Ora invece Shio aveva mandato costui, forse per tenerlo d'occhio. Avete visto il giornale di stamane? Domandò con una risata Hideyoshi. No, rispose pacatamente Aiwan. L'odio per quell'uomo gli traboccava nell'animo. Leggete, leggete, gli gettò il giornale e soggiunse, è proprio spassoso. Aiwan diede un'occhiata alla prima pagina. Grande spazio era dedicato agli avvenimenti di Shanghai. Da tempo non leggeva giornali, ma che cosa facevano mai i giapponesi a Shanghai? Divorò con gli occhi una colonna, sarcasmo e scherni per un errore. I cinesi lesse spalleggiano i giapponesi. Un aviatore cinese bombarda dall'alto Shanghai. Scherni, scherni per tutta la pagina. Un giovane aviatore cinese aveva sbagliato la mira e invece di colpire un obiettivo giapponese aveva lasciato cadere le sue bombe in una via affollata. Centinaia di morti, così i titoli. Alzò gli occhi e vide la faccia esilarata di Hideyoshi. Leggete anche voi, eh? Terribile, spassoso. Rise di nuovo e poi bombardare i propri connazionali è proprio spassoso, non è vero? Aiwan si sentiva soffocare. Non è vero, borbottò. Ho un errore. Nessun errore, lo interruppe bruscamente il suo interlocutore. Tutti i giornali portano il medesimo resoconto, tutti ridono. L'episodio equivale bene a una vittoria giapponese. Ora gli inglesi e gli americani vedranno quanto i cinesi siano sciocchi. Anzi, gentili se ci aiutano a massacrare i loro compagni. Allora, voi ammettete che i giapponesi massacrano i cinesi? Domandò Aiwan. Ne abbiamo abbastanza delle loro angherie, rispose Hideyoshi, serrando le labbra e gonfiandole a borsa. Dovete sapere che finora abbiamo pazientato. Boicottaggi, pregiudizi, attacchi di folle inferocite, assassini impuniti. Per tutti questi anni abbiamo sopportato dai cinesi questo e altro. Ora il nostro imperatore ha deciso di mettere la parola fine all'animosità cinese contro di noi. Noi combatteremo fino a che i sentimenti antigiapponesi siano sradicati del tutto e i cinesi si dichiarino pronti a collaborare con noi. Aiwan lo guardò, non credendo a quanto udiva. Volete dire, ripeté, che ci ammazzerete, che bombarderete le nostre città e violerete le nostre donne fino a che impareremo ad amarvi? Fu lui ora a scoppiare in una gran risata, non si teneva più. E io devo voler bene a voi dite? A voi, signori Hideyoshi, perché voi... Hideyoshi lo guardò stranito. Non voi come individuo, disse. D'altronde noi vi consideriamo giapponese, siete qui da tanto tempo e avete sposato una giapponese. Improvvisamente Aiwan non rise più. Che cosa avete? Gli domandò Hideyoshi, notando il suo mutamento. Niente, rispose Aiwan. Vedo così, di colpo, che non c'è proprio niente da ridere. Eseguì un rapido inchino, tornò nel suo ufficio e sedette fremente alla sua scrivania. Si sentiva soffocare, la testa gli doleva. Aprì un cassetto, ne trasse alcuni incartamenti e finse di cominciare a lavorare, ma non riusciva. Vi consideriamo giapponese, aveva detto Hideyoshi. Una volta in LAN aveva messo per iscritto, così come era solito fare, una narrazione di quello che il Giappone aveva fatto in Cina. Era un lungo elenco che risaliva indietro nel tempo, così ricordava Yuan, fino al nonno del suo amico. C'erano state concessioni forzose di terre e di traffici, prestiti versati a capi briganti a nome del governo per diritti su miniere preziose, poi l'occupazione di Chiao Chao e le 21 domande. Haiyuan era ancora bambino quando la sua governante lo aveva portato a vedere i cortei antigiapponesi. Le bandiere, ricordava, erano belle, ma un giorno lo aveva spaventato un gran manifesto dove si vedeva un grosso giapponese nell'atto di fare un gran boccone di cinesi, grandi e piccoli. Egli si era messo a piangere e l'istitutrice lo aveva portato a casa, dove per un paio di notti era stato così assillato dall'orribile visione che si ridestava gridando. I suoi genitori avevano finito col collocargli in camera un lettino di bambù nel quale Peonia dormiva tenendogli compagnia. Come dunque poteva ora essere un giapponese? Tamà non gli era entrata nel sangue, no. Ella, come tutti gli altri, era rimasta in una cerchia esterna, non aveva intaccato la sua natura interna. 2 giorni dopo i giornali pubblicarono altre notizie. Il signor Hideyoshi fece capolino nello studio di Haiyuan per comunicargli, non senza uno dei suoi soliti sorrisi smorfia, che ora erano i giapponesi che provvedevano a innaffiare di bombe Shanghai. Aveva letto l'Osaka Mainichi? Haiyuan lo guardò fisso senza rispondere. Lo avrebbe ucciso quell'uomo. Lo prese un furibondo desiderio di schiantarlo, di schiacciarlo come uno scarafaggio. Colui, vedendo la sua faccia, si affrettò a chiudere la porta e a sparire. E tuttavia, non fu l'odio, ma un sentimento assai più profondo a spingere Iwan a decidersi con chiarezza e semplicità, come se qualcuno gli suggerisse una linea di condotta. 7 giorni dopo arrivò una nave dalla Cina. Iwan fu inviato all'ufficio di dogana sul molo a ricevere la merce destinata alla casa Muraki, ma uno strano spettacolo gli si offrì davanti agli occhi allorché vide scaricare la nave. Le casse accuratamente confezionate, contenenti la merce per la ditta, non erano nulla in confronto dell'altra merce che veniva contemporaneamente scaricata sul molo. Non si trattava di curiosità artistiche né di oggetti rari, ma di utensili di comune uso quotidiano, roba che era stata spedita sciolta, cioè non imballata, come se fosse stata imbarcata in gran fretta. Accanto a una vecchia scrivania o una sedia scolpita si vedeva una farragine di letti, tavole, stufe di foggie e di metalli esotici, pianoforti, quadri, biancheria da letto, frigoriferi, fonografi, tappeti, cuscini, tende di velluto e altri simili arredi e orgoglio della popolazione di Shanghai e roba che avrebbe potuto provenire dalla sua casa paterna. Haiyuan guardò ogni cosa con occhio attento. Non si sarebbe sorpreso, ecco, di trovare qualche oggetto familiare, ma non trovò nulla. Per tutti gli oggetti c'era un destinatario pronto a riceverlo. Cupamente pensò: oh, ora sono certo che la guerra c'è davvero. Poi, questo è bottino, bello e buono, è roba proveniente da case private. Qualche cosa fece argine alla furia che sentiva divampare nel petto. La nave, infatti, portava un altro carico, un carico tutto speciale. Quando tutto fu scaricato, davanti agli occhi di Haiyuan, che fremendo di sdegno non si era mosso dal suo posto, si procedette allo scarico di molte piccole casse di legno. Sul coperchio di ciascuna di esse c'era un nome, e anche per esse c'erano destinatari. Un uomo s'alzò e gridò i nomi, e un gruppo di gente si fece avanti e ritirò le cassette. I destinatari portavano tutti i segni del lutto più stretto. Haiyuan capì al volo. Quelle cassette contenevano le ceneri dei caduti in guerra. Fino ad ora non avevano pensato che alla morte dei cinesi, ma ora vedeva quanto quell'idea fosse stata avventata. Anche i giapponesi dovevano soffrire. Vide la distribuzione delle cassette, le vide ritirare a una, piamente, dai destinatari, senza un singhiozzo, e portar via. Qualcuno, ricevendo il suo morto, perfino sorrideva, fedele all'insegnamento che comandava di sorridere quando un proprio caro moriva in battaglia. Ma molti altri visi erano rigati di lacrime silenziose. Senza accorgersene, Haiyuan si spinse sempre più vicino finché s'accorse che gli occhi di molti di coloro che piangevano lo fissavano. Dovevano averlo riconosciuto come un cinese. Ma non per questo assumevano espressioni di odio, piuttosto di puro, intenso dolore. Egli ne fu scosso. Involontariamente pensò che tanta contenutezza non avrebbe potuto verificarsi nel suo paese. No, la sua gente non era così allenata e disciplinata a sopportare il dolore quanto questa. A una folla cinese il dolore avrebbe strappato gemiti e maledizioni. Un po' vergognoso indietreggiò e così facendo urtò contro un vecchio che se ne stava solo e in disparte con una delle tante cassette strette al petto. Aiwan, incontrando per caso quegli occhi, vide in essi un così paziente dolore che non poté trattenersi dal mormorare qualche cosa su quella pazienza e su quell'assenza di manifestazioni di odio. Il vecchio rispose con dolcezza: perché dovremmo odiarvi? In tutto questo voi non c'entrate. E poi la nostra gente è stata educata a soffrire con letizia per la patria. Così dicendo, non tratteneva le lacrime, ma non per questo allentò la stretta attorno alla cassetta, mentre soggiungeva con voce tremante: sì, sono felice, era il mio unico figlio. Quel pianto e quelle parole del vecchio furono come una luce nello spirito di Aiwan. Quell'ombra opprimente, il silenzio nel quale era vissuto, tutto svanì. In quell'attimo fu richiamato alla propria intima realtà, al suo vero io, a quell'io che si era prodigato in sogni generosi per il proprio paese, pronto al sacrificio. Come questi giapponesi amavano il loro paese, l'amor di patria che ora vedeva splendere nel volto di quel vecchio era il più alto e il più nobile sentimento del mondo. Come piccolo e meschino il suo confronto, l'amore di una creatura per un'altra. C'era un amore infinitamente più vasto, nel quale si sentiva spinto ora a gettare tutto se stesso. Non lo aveva conosciuto mai lui, quell'amore. Aiwan, aveva detto Peonia, tu sei come un apostolo. Improvvisamente anelò di votarsi al gran sacrificio e di sciogliere così tutti i dubbi. Non era mai stato tanto felice, pensò, come nel tempo lontano della comune fede con Enlan. No, nemmeno Tamai e le sue dolcezze gli avevano dato tanta felicità. Egli era una natura che più era felice quanto più si prodigava. C'era voluto il dolore altrui per rivelarlo a se stesso. Nel proprio paese, quanti ora erano quelli che soffrivano? Si volse dall'altra parte e il vecchio se ne andò. Ma Aiwan ora non aveva più bisogno di lui, il suo ciclo era compiuto. Il destino, quello strano destino nel quale Tamà aveva sempre creduto. Si era servito del vecchio al momento giusto e lo aveva poi, per così dire, congedato. Aiwan, senza più pensare a lui, tornò alle merci che lo aspettavano nei magazzini della dogana, ma durante tutto il tempo che passò ad ascoltare e a rispondere alle domande dei funzionari che ispezionavano il contenuto delle casse e controllavano le carte, una domanda gli assillava il cuore e il cervello: come farò a dirlo a Tamà?